Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccomi qua, si riparte. Sarà una buona e bella giornata. Dai, guardiamoci attorno, cerchiamo qualche cosa che ci piace, di bello, di carino. Se non lo troviamo, andiamo davanti allo specchio e regaliamoci un sorriso. Ci farà sicuramente bene. Provate, intanto non costa nulla. Intanto che magari vi avvicinate allo specchio, io vado a dare il benvenuto alla dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa presso la clinica dermatologica all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Buongiorno, bentornata. Buongiorno. Grazie, è un piacere. Buongiorno. Dottoressa Fulgione, lei ci deve dare una mano perché ormai conviviamo con mascherine, guanti, altri presidi, ma dopo averli utilizzati spesso la nostra pelle appare danneggiata. Come possiamo prevenire i danni da mascherina, se così possiamo definirli, e da guanti? Sì, verissimo Nicoletta, ormai se nella fase 1 erano più che altro gli operatori sanitari a dover indossare guanti, mascherine per tempi molto lunghi, adesso in questa fase anche i non addetti ai lavori, tutti insomma, dobbiamo gestire al meglio la nostra pelle. Io partirei, guarda, proprio dai danni che possono provocare i guanti, perché in realtà in questi ultimi mesi noi dermatologi abbiamo visto, proprio per l'uso dei detergenti a base di alcol al 70%, veramente un aumento esponenziale delle dermatiti irritative. E chiaramente non è che possiamo evitare la detersione accurata come ci hanno insegnato, però dobbiamo anche aiutare la nostra barriera cutanea affinché non si danneggi e soprattutto non si alteri l'equilibrio del microbiota cutaneo o di tutti quei microorganismi saprofiti che abitano la nostra pelle e che se appunto andiamo ad alterarlo ci possono provocare poi delle dermatiti anche resistenti ai classici antibiotici. Ecco, quindi le mani sembrano, intanto dottoressa Fulgione, intanto per descriverle, le mani sembrano un po' arsurate e in alcuni casi ci sono anche dei taglietti, vero? Sì, assolutamente, molto molto disidratate, secche, con questi taglietti che sono dei danni alla barriera cutanea, quindi anche delle fonti di nuove infezioni. Certo. Quindi è fondamentale, guarda, la detersione, al di là del disinfettanti che dobbiamo comunque usare, però veramente quando è indispensabile, perché la detersione dovrebbe essere una detersione selettiva, cioè asportare lo sporco, l'impurità, però mantenendo intatti i lipidi che sono presenti sulla nostra pelle. Allora cosa possiamo fare? Dei detergenti che siano tipo Sindet, saponi non saponi, ecco, oppure le creme lavanti, gli oli detergenti che detergono per affinità, non alterando il delicato equilibrio della nostra barriera. E poi bisogna stare molto attenti, soprattutto quando si utilizzano i guanti, ad asciugare molto bene le mani prima di infilare i guanti, perché se creiamo una situazione di caldo umido, questo può verificare e può provocare ancora di più la comparsa di macerazioni, quindi maggiori micosi, maggiori infezioni purtroppo. Quindi non dobbiamo utilizzare neanche delle creme troppo ricche prima di mettere un guanto. E un'altra attenzione la farei per chi ha le mani delicate già in qualche modo danneggiate ad utilizzare i guanti con la polvere, evitiamoli perché possono portare maggiore sensibilizzazione, maggiore secchezza. Magari ecco, e una volta che li tolgo i guanti, dottoressa Fulgione? Perfetto, la sera ci dedichiamo alla detersione, come dicevo, per affinità, applichiamo una bella crema acqua in olio, cioè una crema che contenga molto grasso, un unguento, con una maggiore quantità di lipidi proprio per rigenerare la barriera cutanea. Quindi dopo aver utilizzato i guanti, sempre crema, sempre la crema nella nostra borsetta, sempre con noi insomma. Dottoressa Fulgione, cosa possiamo fare invece per la pelle del viso che viene interessata dall'uso delle mascherine? Soprattutto adesso che inizia un po' il caldo e avvertiamo un po' questa sorta di effetto serra, sentiamo che siamo umidi, sudatici, molte persone, soprattutto le persone che sono predisposte ad avere brufoli, brufolini, che è un problema che ormai non interessa più solo le adolescenti o gli adolescenti, ma anche gli adulti in generale, ecco, follicoliti, la pelle sembra più brutta. Sì, è verissimo, e questa non è una cosa che notiamo soltanto noi, ma l'hanno notato anche in Cina. Penso in un lavoro che è stato fatto nella città di Chengdu su 404 persone, addirittura l'utilizzo della mascherina e, diciamo, di tutti questi presidi, gli occhiali, eccetera, ha determinato in più della metà delle persone un peggioramento delle condizioni del viso, e in chi già soffriva di problematiche come accennavi, acne, rosacea, eccetera, chiaramente un peggioramento di tutte queste condizioni. Ecco, allora, anche in questo caso bisogna stare molto attenti. Sempre, io consiglio al mattino, quando ci svegliamo, quindi al nostro risveglio, ecco come adesso, detergere il viso con quelli che sono i detergenti adatti al tipo di pelle. Quindi chi già soffre di acne utilizzerà il suo detergente per l'acne, piuttosto che un detergente, come dicevo, delicato, un latte per gli altri tipi di pelle. Dopodiché è molto importante, per evitare che la pelle resti troppo, appunto, unta, anche per questo caldo che adesso negli ultimi tempi sta aumentando, utilizzare dei prodotti con una texture molto leggera, quindi dei fluidi molto leggeri, e negli uomini che hanno una pelle già tendenza più seborroica, quindi più soggetta alle follicoliti, i gel a base acquosa, quello è l'ideale. Certo. Dobbiamo evitare invece le creme barriera, cioè le creme che normalmente ci difendono dalle intemperie, perché potremmo pensare che queste ovviamente riducono l'irritazione da mascherina, però creano una sovraidratazione, quindi sono occlusive e peggiorano tutti quegli stati della pelle di cui abbiamo già accennato, diciamo. Ecco. Quindi, parola d'ordine, dottoressa, leggerezza. Leggerezza, assolutamente, ecco, quello che ci può gradi. A 360 gradi, in realtà la sera magari possiamo sicuramente dedicarci un attimino di più, utilizzare delle texture più idratanti, delle maschere, perché no, delle maschere per idratare la nostra pelle, delle maschere specifiche. Un'attenzione andrebbe fatta però alla zona del contorno occhi, ad esempio durante ecco, sì, la giornata. Ecco, sì, ha ragione, dottoressa Fulgione, perché proprio lì batte un po' la mascherina. Infatti, dove è proprio ci... sì, proprio lì dove la pelle è molto sensibile. È molto sottile, e infatti quella zona è una zona dove dovremmo riapplicare un contorno occhi, anche qui scegliamolo di tipo già lenitivo, esistono proprio in commercio questo tipo di prodotti, anche più volte, però stando molto attenti, perché non dobbiamo dimenticare che gli occhi sono un punto d'ingresso del virus, quindi farlo sempre con le mani pulite se vogliamo durante la giornata, anche all'esterno magari delle nostre abitazioni. E un altro utile potrebbe essere l'acqua termale. Io lo dico molto spesso alle nostre pazienti: nella borsetta acqua termale, togliamo la mascherina ogni 2-3 ore se riusciamo, anche all'interno di un ambiente di lavoro, e la spruzziamo, la evaporiamo sul viso, in modo da avere un senso di freschezza e di idratazione. Certo, mentre la sera, quando finalmente torniamo a casa e possiamo regalarci un po' di relax e la mascherina l'abbiamo messa da parte, abbiamo qualche consiglio, soprattutto quando vediamo che iniziano, no, a formarsi dei piccoli brufolini, oppure ci sono delle zone arrossate, che cosa possiamo fare? Allora, possiamo fare diverse cose. Innanzitutto togliamo la nostra mascherina, sempre la detersione fondamentale. Dopodiché potremmo fare, se abbiamo la pelle particolarmente arrossata, delle maschere idratanti, oppure la stessa acqua termale ad impacco, messa sui fazzolettini di carta e messa proprio sul viso ad impacco. Se abbiamo il brufoletto, perché no, le terapie, tutte le terapie dell'acne, della rosacea, vanno continuate di sera. L'importante è non utilizzare dei prodotti che possono essere aggressivi, o ad esempio l'antibiotico piuttosto che il retinoide, prima di utilizzare una mascherina, perché questo ci crea l'irritazione maggiore. Quindi la sera tutto ci possiamo dedicare al nostro viso con tutte queste piccole accortezze. Dottoressa Fulgione, noi donne come possiamo comportarci col trucco? Ecco, quello non ci rinunciamo mai. Allora, in quel caso dovremmo cercare di utilizzare dei trucchi non transfer, cioè quelli un pochino a lunga durata, che conferiscono al prodotto una maggiore permanenza sul viso, senza ovviamente incorrere in sbavature, oppure eccessiva sudorazione può portarlo praticamente via, creando una situazione non piacevole sul viso. E nelle pelli acneiche vanno preferiti invece i fondotinta in polvere, i fondotinta compatti, quelli oil free, proprio sempre per il discorso della leggerezza, della texture leggera. Iniziano le belle giornate, dicevamo, e poi sono qua da vedere. Come ci comportiamo con la protezione solare? È necessaria oppure possiamo farne a meno? No, assolutamente. Eccola, assolutamente, anche con la mascherina. Assolutamente, anche con la mascherina, anche sotto la mascherina. Anzi, diciamo che questo periodo un po' del lockdown ha creato una sensibilità maggiore al sole nella nostra pelle in generale, è diventata più vulnerabile. Normalmente ad aprile, maggio, già col primo sole iniziamo in qualche modo a preparare la nostra pelle. Invece i nostri melanocelli sono stati un pochino più pigri, quindi dobbiamo stare ancora più attenti alle scottature, alle macchie. Quindi chiaramente se siamo all'aperto la protezione la possiamo applicare al mattino, se abbiamo una pelle già leggermente seborroica possiamo anche utilizzare solo la protezione solare se staremo poi all'aperto sotto la mascherina, sempre in formulazione leggera, i fluidi a base acquosa o anche gli spray, però bisogna stare molto attenti a ricordare che la protezione va riapplicata ogni 2-3 ore, soprattutto se siamo al sole tanto tempo, e poi anche sotto la mascherina, e che devono avere sempre uno spettro ampio, cioè sia verso i raggi UVA che verso i raggi UVB, e questo si trova sempre indicato sulla confezione, dove troviamo quel famoso valore SPF che ci indica quanto è alta la protezione, e poi UVA UVB con due piccoli valori vicino che ci fanno capire l'ampiezza dello spettro. E la raccomandazione quindi, dottoressa Fulgione, è che tutte le volte che ci tocchiamo il viso per mettere una crema, oppure, mi raccomando, il lavaggio delle mani assolutamente, pulite. Con tutte le attenzioni che ci ha suggerito la dottoressa Fulgione, per non stressarle troppo, per mantenere integra quella barriera che è molto importante per la salute della nostra pelle. Dottoressa Fulgione, io la ringrazio per essere stata con noi, per tutti questi consigli. Speriamo di sentirci sempre presto. Mi saluti Napoli. Certo. Grazie. Ringrazio Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Lorenzo Nespoli in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Vi do come sempre appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, e a partire dalle 13 sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute trovate le nostre interviste a tu per tu. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e vi aspetto. Un saluto da Nicoletta.